qui finisce la lezione. È solo chiacchiere, tutti. minuti primi, le frequenze di Onda Rossa 87,9 della modulazione di frequenza, e già di là dal vetro vediamo la situazione agitarsi. Eh sì, una puntata, una trasmissione, non abbiamo nemmeno provato il microfono, che non avremmo voluto fare, non avremmo voluto fare in questi termini, in queste condizioni, per questi motivi. Sì, un ospite in particolare, poi probabilmente, forse, speriamo anche altri, abbiamo un po' sparso la voce in giro. Ma più che un ospite, era 7-8 anni fa un'abitudine, una consuetudine, una cosa che si faceva tutte le sere, di darci il cambio con due personaggi, due conduttori, due redattori di Radio Onda Rossa, e i microfoni sono già alzati. Ecco, prova. Sì, ci siamo, forse vai. Prova, ritorno, vediamo se ritorna anche il microfono, sì. Oltre a Downtown Rockers. Esatto, l'avete riconosciuta questa voce, ci risiamo, un abbraccio forte, veramente emozionato, insomma, per questo fatto. Però dicevamo, una trasmissione che non avremmo voluto fare. Non avremmo voluto farla così, ovviamente, perché dopo tanti anni io rientro qui in microfono dopo 10 anni circa. E le emozioni sono tantissime, fortissime, non so se si ce la farò. Si vedeva, però sono quelle cose che non si possono non fare. Poi poi si apre il microfono e si va, ma si va quando si deve dire qualcosa, sì. Esatto, esattamente. Quindi è proprio questo il punto. Questa era la sera in cui bisogna dire e far sentire qualcosa, più che altro far sentire la presenza di una persona che è stata qui per tanti anni, che ha animato la trasmissione Downtown Rockets, che veniva appunto dopo 25 o'clock il mercoledì notte, che ne ha garantito l'esistenza insieme a me per tanti anni, che ha prodotto tantissime vibrazioni positive in giro per l'Italia, e conoscenze, relazioni, è stato qualcosa di molto forte. E quindi stasera vogliamo che Silvio, il barone, il Milan Barone, sia comunque con noi. Sia con noi. Anche perché appunto per tante puntate, tanti anni, tante settimane, proprio questo gruppo c'era, che apriva appunto poi Downtown Rovers, e niente, insomma, purtroppo quando si è in queste condizioni si scrollano le spalle. Ce la mettiamo tutta e abbiamo una radio e lasciamo andare la musica. Proviamo a non far sentire la mancanza. Quarantanove minuti dopo le 22. Sarebbe lo stesso. Onda Rossa, @ondarossa.info, la mail della radio, 25 o'clock@ondarossa.info, questa mail della trasmissione che state seguendo, www.ondarossa.info, il sito della radio. Radio che vive grazie al sostegno di tutti e tutte voi. 6180 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare al laboratorio cooperativa culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. (06) 491 750 il telefono per stare con noi questa notte. Non manderemo i suoni consueti questa sera, appunto perché abbiamo spiegato poc'anzi. Quindi a nostro modo cercheremo di dare il contributo per rivivere così un pezzo di Downtown Rockers. Lo faremo, e chiedo scusa a tutti gli amanti delle vibrazioni, a nostro modo, cioè partendo come abbiamo sempre fatto in questi incontri, dalla declinazione punk della rivolta e cercando di arrivare poi ai suoni in levare. Insieme a noi, avvicinati dai, accendi sti samboy. Come va? Nella danzola con noi, dai voce, dai luce, accendi sti samboy. Ama la Roma la rima che quando suona si innamora. Ama la Roma la rima che quando suona non perdona. Ama la Roma la rima che quando suona si innamora. Ama la Roma la rima. Dalla Giamaica qua in Italia ricordo studio clandestino. Parlo dell'Erdi che ia fai il primo sound da vicino. Wallah vai paua la prima volta a Spinaceto. Trasmissioni radio e la gente che conoscemo, che costruire in Sant'Insta sembrava una cosa ardua. Tanto da trasmetterci a vor tempo che to d'ansia. Tocca da esaltare la linea di bassa frequenza. Ma tutto se sognava senza una lira in tasca, alza la mano. Se ti piace reggae romano alza la mano. Se ti piace raga moffina alza la mano. Se ti piace come lo fa, ma alza la mano, Soundboy, alza la mano, se ti piace. Ama la Romana lì, ama la Romana lì, ama la Romana, Romana, Romana, Romana, Romana rima. Ama la Romana lì, people, are you ready? Come stai? Nella danzola insieme a noi, avvicinati dai, accendi sti samboy. Come va? Nella danzola con noi, dai voce, dai luce, accendi sti samboy. Ama la Roma la rima che quando suona si innamora. Ama la Roma la rima che quando suona non perdona. Ama la Roma la rima che quando suona si innamora. Ama la Roma la rima. Dalla Giamaica qua in Italia ricordo studio clandestino. Parlo dell'Erdi che ia fai il primo sound da vicino. Wallah vai paua la prima volta a Spinaceto. Trasmissioni radio e la gente che conoscemo, che costruì in Sant'Insta sembrava una cosa ardua. Tanto da trasmetterci a vor tempo che to d'ansia. Tocca da esaltare la linea di bassa frequenza. Ma tutto se sognava senza una lira in tasca, alza la mano. Se ti piace reggae romano alza la mano. Se ti piace raga moffina alza la mano. Se ti piace come lo fa, ma alza la mano, Soundboy, alza la mano. Se ti piace reggae romano alza la mano. Se ti piace raga moffina alza la mano. Se ti piace come lo fa, ma alza la mano. Tra tutte le vicende che ti ricordo coppia amore, so giornate senza limite in continuo freestylare. Le macchine distrutte dalle casse caricate, basso terapie, de fine serate. C'era che al banco delle torte che ci stava gli acchiappare. C'era la faccia della gente che sta qua con la balla. Tutte le volte senza dovere da dimostrare che roba tranquilla. Viva a tavola a magna, viva ritardo quasi rotto, rotto tutte le volte. Poi c'è la cassa che non si sente, il microfono che rientra. Nella danzola porca paletta e il silet che sembroglia a noi, ma che ce frega, ma che ce importa tu. Ama la Roma, la Roma, la rima, la rima de core de rima Roma. Ama la Roma, la Roma, la rima, la rima de core de rima nostra. Ama la Roma, la rima, la rima de core de rima romana. Ama la Roma, la rima, la rima de core de rima nostra. Alza la mano, se ti piace reggae romano alza la mano. Se ti piace raga moffina alza la mano. Se ti piace come lo fa, ma alza la mano, Soundboy, alza la mano. Se ti piace reggae romano alza la mano. Se ti piace raga moffina alza la mano. Se ti piace come lo fa, alza la mano. C'era curran anni di Onda Rossa, taglie pure de Danta Roca. C'era la massa della villata, che era più quello che mi divertiva, con la cassetta cantata guadopa, che mi faceva colonna sonora, con Sorruzza e Ciclopi Mega. Satta massa cana, la Ionarte e linea de massa, origine dub massa, con centrale de Civita Vecchia, la bravetta e rime de Vigna, sempre convinti del 100% d'approssimazione nel corpo. Per dammata la gente da vecce tipo un diffusore da popolo. Trattati di storia dei romani 90, che solo a ripensarci mi viene la tremarella. Novità assoluta, roda attorno alle mura e al coordinamento dei CSOA. E poi c'era una cosa che era fissa e palese, il marito zaro si do a Porta Portese. All'epoca di notte non ce n'era poi tanti, se ritrovavamo là sudati e contenti. Ama la Roma la rima che quando suona se innamora. Ama la Roma la rima che quando suona non perdona. Ama la Roma la rima che quando suona se innamora. Let's play on. Ciao. You listen to Radio Onda Rossa. Wicked station. Downtown Rockers. I'm the number one station. Downtown Rockers. Remember, it's a number one reggae program. Reggae Radio. Radio Onda Rossa. You don't know. See. Kill them with selection. Kill them with selection. Kill them with selection. It's standing by my side. That's why I live in red. All the pestilence that call it by night. It's just, it's standing by my side. Then why should I be afraid of the pestilence that call it by night? And I'm not standing right now, I'm lying in my bed, y'all. Every Wednesday night, the voice of the ghetto people. Allora saluto a chi piace Danta Rockers sulle mani. Per Danta Rockers a Roma. Danta Rockers, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. You, ragamuffin. Exterminate. Advertise. Three, two, one. Fire, fire, fire. E questo era Downtown Rockers. Cause life is just for living. War in a Babylon. Tribal war in a Babylon. Is it out there? Oh yeah, now. Is it out there? Oh yeah. War in a Babylon. Tribal war. Vabbè, è anche difficile poi capire i ritmi dei, cioè il ritmo della conduzione reggae. Cioè col punk c'è un'altra, c'è un altro ritmo, un altro modo. Si è sfonnata, sì, vedi. E queste sono le cose della Radio Onda Rossa. Però è tutto a posto. Niente, no, non vi aspettate grossi discorsi, grosse elucubrazioni, grandi lacrimevoli melenze, discussioni, no, la maniera migliore per noi, per star meglio noi essenzialmente, perché poi appunto uno muore e finisce così, insomma, però per star bene noi e per ricordare certe cose appunto che poi vivono, cioè hanno una vita loro proprio nei ricordi nostri, la cosa meglio è fare una trasmissione, come ci viene, come deve essere. And you'll get your shit. Downtown Rockers 87.9 every Wednesday and radio Onda Rossa. Wicked Station. Adicia a fire. Adicia a sugar. Great Uga Uga. Little Uga. One time El Paso, one time. Two time El Paso, two time. Tell you about. Three time El Paso, three time. Four time El Paso, four time. Aguaso, El Paso, El Paso, Aguaso. Mosquito one, mosquito two, mosquito jump in a hot callaloo. Tell it. Yeah, scrub me. Downtown Rockers 87.9 every Wednesday, Radio Onda Rossa with Milton Barrow. What I call Jodia, you know. Keep listening. Now Milton Baroni, Cardi I, yeah, and the Ghetto Youth Crew. Lone Ranger is the name, the music is the game. Radio Onda Rossa, I'm a musician. 87.9 FM. Let off. Every Wednesday night, the voice of the people. Man say, and they're not gonna be pure and clean. Allora Militant Baron, ci manchi e ci mancherai tanto. Noi cogliamo l'occasione per dire che questa spontanea voglia di ricordare Silvio comunque ha prodotto anche una serata che ci sarà domenica prossima all'Oa Acrobax in via della Vasca Navale. Lo conosciamo, lo conoscete tutti, ci sarà una dance hall a partire dalle ore 19. Presenti moltissimi dei protagonisti della scena romana, delle crew reggae, di tutti gli amici, i compagni e le compagne di Silvio. Questo significa poi ritrovarsi, perché poi è incredibile, ma queste occasioni poi ti fanno ritrovare con persone, amici con cui non ti vedi da tanti anni. E quindi che sia anche questo. Militant Baroni. Man them dey pon the scene. Say Militant Byron them dey pon the scene. Say charge you for Iron Man them dey pon the scene. Ain't no see what I mean. And this a M16. Every Wednesday night, the voice of the ghetto people. So you gotta stick around and don't be no clowns. You're the king's son. I better notice I que yo ya escuché yo un cuello saró downtown. E a qualsiasi posto io mi trovo, io l'accendo questa radio sintonizzata su 87.9 a mezzanotte del mercoledì. Sunshine when ghetto crew is gone. The lawn is always empty. Ain't no sunshine when ghetto crew is gone. And the dance hall is always empty. Anytime the sun is away. Wonder this time we get on with God. Wonder if he's going to stay. Ain't no sunshine when militant is gone. And the love always empty. Anytime the sun is away. I know. Ain't gonna leave this town alive. Get on your heart. You know where you run. You know where you do. Ain't no sunshine when ghetto crew is gone. And the love always empty. Anytime militant is away. Anytime ghetto crew is away. Redeem of full alcohol. Ellis, when I'm in town, I listen to Downtown Rockers on Radio Onda Rosa 87.9. Remember, Downtown Rockers. E invece immagini, ricordi, suoni, colori, sensazioni, odori vengono fuori qua in redazione, cursori abbassati. And if a song boy stands in Downtown Rockers way, it shall be murder and double murder. Hey. Però il gioco forse è proprio quello. Downtown Rockers money, kid in no come with no in. Sono sensazioni da rispettare. Money, kid in no come with no in. Jaja give him all the blessing from the milk in your. E perciò noi regaliamo suoni, i suoni. To lead you to this day. For when you say your prayer, judge you always hear. For when you think your burden is too heavy to bear, just remember Jah is always there. Like God, hey. Don't go rock as far as me. Kid, I no home with no need. Judge, I give him all the blessing. Barney, kid, I no home with no need. Give him all the blessing, brother man. Showers and blessing is always there. Laja, hey. Have you ever seen a fruit tree? Sometimes it can look so empty. It will bring forth fruit in its season. Cause if it don't get your blessing, dancing in the morning. 0649170 Radio Onda Rossa. The heavens declare the glory of Jah. The firmament show a Jah handiwork. Hi, I'm Max Romeo, and when I'm in Rome, I'm tuned to Downtown Rockers on Radio Onda Rossa, 87.9 Pirates Radio. Militant Baron Jordi Eye, every Wednesday night. Don't move your dial, stay tuned. Militant Barone, champion selector, A1 class, Jordi Eye and get a youth crew. Don't pick up his Rasta record. Can't live in a tenement yard. Rasta can't live in a tenement yard. Too much watchy, watchy, watchy, too much su-su-su-su-su. Too much watchy, watchy, watchy, too much su-su-su-su-su. Rasta can't deal with the red man. All him a do a sell Jaja land. Too much watchy, watchy, watchy, too much su-su-su-su-su. Too much watchy, watchy, watchy, too much su-su-su-su-su. Rasta man loving privacy. I know everything him do, him want people to see. Too much watchy, watchy, watchy, too much su-su-su-su. Too much watchy, watchy, watchy, too much su-su-su-su. Can't penetrate in a tenement yard. Can't meditate in a tenement yard. Can't anitate in a tenement yard. Can't meditate in a tenement yard. As him strike a match, here comes the police. With them watchy, watchy, watchy, with them peep, peep, peep, peep, peep. With them watchy, watchy, watchy, with them peep, peep, peep, peep, peep. Rasta man love him privacy. I know everything him do, him want people to see. Too much watchy, watchy, watchy, too much su, su, su, su, su. Too much watchy, watchy, watchy, too much su, su, su, su, su. Can't meditate in a tenement yard. Can't agitate in a tenement yard. Can't meditate in a tenement yard. Can't agitate in a tenement yard. Rasta can't live in a tenement yard. Rasta can't live in a tenement yard. Too much watchy, watchy, watchy, too much su, su, su, su, su. Too much watchy, watchy, watchy, too much su, su, su, su, su. Rasta can't deal with the red man. All him a do a sell Jaja land. Too much su su su su su su. Too much watchy watchy wa. Too much su su su su su su. Too much watchy watchy wa. Can't meditate in a tenement yard. Can't anitate in a tenement yard. Can't meditate in a tenement yard. Can't anitate in a tenement yard. One nigger, the less, the better, the sure. down, strong black skin and take your blow. I says the Ku Klux Klan. I said, brother, the Ku Klux Klan here to stop our black man, yeah. I says the Ku Klux Klan here. Not to walk alone. I was waiting for the good Samaritan, but waiting was hopeless. It was all in vain. The Ku Klux Klan back again, all and die ball. Them not let me go now. Oh no, one nigga the less, the better the show. Entriamo in punta di piedi con molto rispetto le sottoculture del ghetto. Sono robe delicate, vanno rispettate. Non ci si improvvisa in nulla, si vive a bagno del proprio ambiente, dei propri suoni. Si cresce, si conosce. In punta di piedi ci proviamo. Ku Klux Klan. Il pulse. Lontano 1978. Qualche volta ci si dava il cambio così. Proprio per rimarcare che dei bianchi possono suonare in levare. I bianchi del ghetto. A parte tutte le retoriche del caso. At the end of the holiday come, you know it means no mercy. They caught him with a gun. Che alla rivolta di Brixton in realtà era andato a guardare. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to Però a Paul Simenon piacevano da matti i giri di basso giamaicani. Kick at your front door. How you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? Shut down. commedia. Allora, e questo è un regalo che ci hanno fatto, eh? Più o meno dall'inizio del concerto. 1996. Aiutati che Dio ti aiuta, se esiste un Dio. Allora, in Babilonia, Reno per Babylon. Nel sistema in cui viviamo, viaggiamo tutti quanti sullo stesso treno, viviamo ad un ritmo irregolare, fuori, completamente fuori da quello che è il ritmo naturale di una persona. Stressati, litighiamo in famiglia, anche noi che possiamo considerarci fortunati a fare un cazzo di lavoro come questo, andare in giro a suonare, siamo degli stressati. È incredibile, tutti viaggiamo in Babilonia sullo stesso treno. E dove finiremo? Sullo stesso treno. Ma dove finiremo? Lanciati ad una velocità allucinante. Sì, verso la fine. Ah, non mi aiutano più le rime. Come on. Casino Royale 1993. Era treno per Babilonia. Casino Royale 1994. È lo stesso treno. Biglietti, signore, biglietti. Questo treno è aperto a tutti. Dai, scambio in Babilonia. Chiudi gli occhi e sogna. Giusto radio che non si fermi, che regano come chiedi passi. E da sempre i binari son questi. Fissi uomo tu resiste o mai si fermerà. Ma il ritmo lo può rallentare. La mia anima, anima non muore in questa spirale. Voglio per 25 sensi, un vapore di bruciero senti. Siamo in meno, sopra te la barba melone. Ma quasi una sparata persone costrette a vivere, a lavorare, a amare ad un ritmo innaturale. Quasi siamo sopra questo treno e dormiremo. E chi cazzo lo sa? Babilone, finish coming. Babilonia, Babilonia, qualcuno prova a pregare. E io brada, tu non ci può fermare. c'è gente che vuole avere un biglietto. Bene culo, bene culo, finito ma cuore per la terra non parli. Revolution straight up, straight up, per la prima revolution. La prima rivoluzione è quella personale, quindi... Downtown Rockers all'interno di 25 O'Clock il mercoledì notte da Radio Onda Rossa. Dopo un'assenza di oltre 10 anni, Mikey Jellock's Pandemite. Questo era Mikey Dread insieme a Shots in the Dark, ska band based in Rome. Questa era una delle tante alchimie che usciva fuori dalle nostre nottate, Baroni. E devo dire che ne abbiamo fatte tante, tante, tante, tante col Baracca Sound nei loro vari esponenti. Spina City Massive. Una delle sigle di Downtown Rockers era questa. Yo, yo. Belle strade San Lorenzo ci sono ore inconfondibili. Culla, rula, culla, new discovery. Dentro San Lorenzo a Roma, nella metropoli. Giordi Corbaloni, selezioni senza limiti. Nasce a Tantama, situation senza quality. Vengono dal ghetto, dalle strade più difficili. Stile inconfondibile che subito te fomenta. Che parla Giordi, te rischia le sentimenti. Tanta rock e spinge, tanta rock e sta accende. Ecco poi perché se te la scorti non la spegni. Quando del barone sono le musiche pesanti. Sbrighe te fai che entri e la risenti. Yo, yo. Belle strade San Lorenzo ci sono ore inconfondibili. Culla, rula, culla, new discovery. Dentro San Lorenzo a Roma, nella metropoli. Giordi Corbaloni, selezioni senza limiti. Nasce a Tantama, situation senza quality. Vengono dal ghetto, dalle strade più difficili. Stile inconfondibile che subito te fomenta. Che parla Giordi, te rischia le sentimenti. Tanta rock e spinge, tanta rock e sta accende. Ecco poi perché se te la scorti non la spegni. Fanno che il barone sono musiche pesanti. Sbrighe te fai che entri e la risenti. Yo, yo. Tutta rossa, la radio tutta rossa. Sento la tua voce. Si riprendono facile le buone abitudini. Il trillo. 491750 Onda Rossa. Danta Rossa. Comunica, vivo, vivo, down, down. Vivo, da rota. Sotto al Colosseo demanda musica devota. Stasera te buona e non te fa la sola. La bella piada quando che li me trova. E nella radio è storia, nelle mie scuola. Tra le fondamenta del sole che fa la scuola. Li ragamo fini, li manna rota. Downtown, senti, Downtown Rocker, guarda bene quello che c'è sta, sempre più controllo e meno libertà, adentra sta città, e non sei libero di girare in tranquillità, ogni 10 metri e l'offio c'è sta che te va a parare, è quello che te fanno respirare, come una morsa si c'è sta una ciacca, sempre più controllo, sempre più controllo, senti, sempre più controllo e meno libertà, e non sei libero di girare in tranquillità. Ogni 10 metri una pattuglia dell'ufficio sa che te va a parare. E questo quello che te fanno respirare. Piove, piove sempre sul bagnato. Sto stanco della faccia dei servi dello Stato. Se te stanno addosso come cani quando fiuta l'osso. Cioè, non te fa ingannare, non te fa ingannare. Da sul sistema che te vuole calabra. Senti quel B1 insieme a Downtown che te stanno qui a suonare. Contro il controllo dentro questa città. Sempre più controllo e meno libertà dentro sta città. Senti sempre più controllo e un solo grido per Downtown. Senti un solo grido da Downtown. un solo grido per downtown. Un solo grido da downtown. Un solo grido per downtown. Non c'è oppressione, dico, non c'è divisa che rappresenti l'onestà di questa vita. Ma tanto il fuoco cresce pensando a chi subisce ed è costretto a... E queste erano le vibrazioni di downtown, perché arrivano veramente da downtown. No, voglio dire, insomma, stasera non parla Jordi. In realtà Downtown Rockers era fatta, sì, di una lunga parte musicale. Quando era su vinile essenzialmente era il Barone che maneggiava e selezionava le tracce da mandare, le version, e poi si andava avanti fino a notte fonda. Poi a un certo punto invece il conduttore, che è dall'altra parte, Jordi Ai, cominciava a parlare, insomma, a dire delle cose in maniera molto semplice, molto schietta, molto facile, però che andava dritta al punto. E un po' questa era la forza, secondo me, di Downtown Rockers, questa conduzione notturna con queste breccole, queste frecce che ti arrivavano. Tipo questa. Original Downtown Rockers, uno speciale alla radio station reggae, musica buona di Roma, onda rossa. Se ne vuoi a canna c'è, lasciaci perdere. Se ne vuoi a canna c'è, lasciaci perdere. Se ne vuoi politico mafioso, corrotto e arrogante, sempre con l'atteggiamento da ben pensante, con la televisione dice giochi li voti, con i comizi e le apparizioni, acquisti contenti e non sai più che fa, quando la panza gonfia testa scoppia, c'è una barbaia che ti arriva fino a qua, senti tanta roga che te sta mandando, a canna c'è, lasciaci perdere, su voi, a canna c'è, lasciaci perdere. Show! Lavoro de merda, io non me ne vado. Giubilo de merda, io non me ne vado. Io la mattina quando mi sveglio a me mi tocca essere duro. Mannaggia il presente e pensa solo al futuro, perché quando che ti avvicini a una vetrina la guardi un po' e te ne vai più incazzato di prima. Le cose costano troppo. Show! E si stinga ancora di più la città. Ma faccia il botto allora che fai, provi a andare a lavorare. Ma una cosa sicura ti dico, non ci pensare. No, no, no! Scippa, piuttosto mi dai una mano, non mi vai da spaccia, mi preparano a rupa. Allora canna c'è, lasciaci perdere. A canna c'è, lasciaci perdere. Perché Gesù Cristo se spingeva che lui il pane moltiplicava. Politico medio italiano non mi pare che fa sta strada. Mi sa che a te ti piace sia la pappa che la ciccia. Peccato vedete però la domenica piglia l'ostia con la chiesa al Vaticano. Un grosso vatto hanno sancito. Chi Dio chiude un occhio a volte si è pure bendato. Puntuale alla domenica lava coscienza. Chiesa in mano politica, sempre in convivenza. Cannace, lasciaci perdere. Parla a casa un buon cannace, lasciaci perdere. Stanno sempre a sentire, ma non te ne stupate. Stanno sempre a guardare, ancora te sei stupato. Al quartiere mio c'è sta un detto infame. Annunciamo se non rimbi, se non scippi, se non li dico. Per Downtown Rockers tutti e noi moi Giorgio Barone. Yeah. Cali qua non spicciano mai. A me me basta l'usule, me scarpa in tre fore, scarpa in tre fore, sì, da quando la mattina te alzi e te in faccia alla fenescia c'è subito una cosa, cancia le chito e te frescia tutto il giorno, perché sai che lo tieni attorno. Ma c'è bete, l'ucore tu la sape, c'è bete, ci sta cantando e ci grida. Caete l'usule, ca ogni giorno te illumina. Caete l'usule, mena muoi cammina. Caete l'usule, è sempre un poco di scarficia. Caete l'usule, quando lui giù me prescia. Sì, sule, forte, caute, immenso, ca quando lui... Carmo qua, per Downtown Rockers tutti e noi moi Giorgio Barone, yeah. Cali qua non spicciano mai. A me me basta l'usule, me scarpa in tre fore, me scarpa in tre fore, sì, bocca quando la mattina te alzi e te faccia alla fenescia. C'è subito una cosa, cancia le chito e te flescia tutto il giorno, perché sai che lo tieni attorno. Ma c'è bete, lo cuore tu la sape, c'è bete, ci sta cantando e ci grida. Caete lo sole, ca ogni giorno te illumina, caete lo sole, mena muoi cammina. Caete lo sole, è sempre un poco di scarficia, caete lo sole, quando lui giù me prescia. Sì, sole, forte caute in me. Senti, original da pleta, mille da barone, papai. E tutta la gente che sta a balla, moi. Senti, bueno. Senti, bueno. Fuma, io voglio erba. Io voglio erba. Agnesha, dunca, mette te da me la gana. Lo yumo, io la voglio libera. La voglio libera. Agnesha, dunca, mette te da me la gana. Lo yumo, e dove la gana. Io con fumo e con estono. Lo stato che lo prebisciamo quando fumo. Io sto bueno. Libero de ogni pizza e lunga di mio capo. Aggi fuma da erba, ma chi un mezzo mi ha giusciuto. Perché aggi deluda capo e perché aggi capito. Qui giocate giusto e qui giocate sbagliato. C'è che mi porta a nazzo che mi faccio scendere tu. Io fumo solo erba, non si accese, mi sta spiego. Io mi spiego, io voglio erba, io voglio erba. La gnascia duca mi accetta da me, la canna lo io muoio. La voglio libera, la voglio libera. La gnascia duca mi accetta da me, la canna lo io muoio. E lui semina la stagione, lui chiamiamo. Ogni giorno quante diciamo e lui ci andiamo. Poi quando cresce che una bella ghiatta detta, lui vagnone ed è pronto con della schiatta. Puro che mi dispiace perché c'è una bella ghiatta. A casa mia andiamo lì a una giorno stanza. Ma per me la vici mia è solo una speranza. Sappiamo che lui si può fare di nemmo coscienza. La gente li vede sta grande conoscenza. Perché lui ci vuole il ballo la sua veresse. Ma io voglio erba, io voglio erba. Agnascia duca me c'è te da me la gana lo io mai. La voglio libera, la voglio libera. Io voglio erba, io voglio erba. Agnascia duca me c'è te da me la gana lo io mai. La voglio libera, la voglio libera. Agnascia duca me c'è te da me la gana lo io mai. Ma io non dico a gente che la gana può di fare. Qui sta della scelta a me mi pare naturale. Come mia quasi tutti lo stanno a fare. E tutta quanta la gente me la cosa sta a spiegare. Io voglio erba, io voglio erba. Agnascia duca me c'è te da me la gana lo io mai. Voglio libera, la voglio libera. Ciao, ho senti, anche in innamorare ma fai. Capa selezionato, lezionato, strezzo stai. Ho cinema, ho cinema. Acqua, ai, acqua, ai. Haccalal. Ehi, original da frente per mini d'ambarone, ma fai. Senti, bueno, senti, bueno. A cinque mega luce, a cinque mega luce, siamo qua. A tutti i fumatori di marijuana. Io voglio erba, io voglio erba. Agnascia duca me c'è da me la gana lo yumoi. La voglio libera, la voglio libera. Agnascia duca me c'è da me la gana lo yumoi. Io voglio erba, io voglio erba. Agnascia duca me c'è da me la gana lo yumoi. La voglio libera, la voglio libera. Agnascia duca me c'è da me la gana lo yumoi. E dammi la gana io con come tu me stanno. Jordi, bella, Milli Tambarone, bella, Downtown Rocker sta qui. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Questo è Brusco, The Villa, Downtown Rocker. Yo, la musica, baby, scu qua di Roma. Ma se vamo, stasera che Brusco canta e la danza. Yo, niente, nanna, bevi un caffè. Vieni, che resto vieni da sé. Downtown Rocker, mo chiamati, ho detto vieni. Vieni con me, niente nanna, bevi un caffè. Vieni, che il resto viene da sé. Downtown Rocker, può chiamate, ho detto vieni. Ho detto vieni con me. Vado più veloce sia le fisiche là. Sia ad un colpo quando parte dalla rivoltella. Sia del getto d'acqua che esce dalla fontanella. Quando parte il passo sai che il corpo si rivela. Giordi me dall'assist come Dotti per Montella. Ma se non c'è il picco so andare pure a cappella. Brusco se ingarella come la Nutella. Mi spalmo sul ritmo quando che c'è Sant'Onzella. Non mi tieni a bada manco si mi tieni in cella. Manco se me lanci in orbita sopra una stella. Questa sera zoppa balla rolla della. Niente di finivo mozzarella. Niente nanna, bevi un caffè. Vieni, che il resto viene da sé. Downtown Roger, mo chiamate, ho detto vieni. Dai e vieni con me. Niente nanna, bevi un caffè. Vieni, che il resto viene da sé. La luna è alta e chiamate, ho detto vieni. Dai e vieni con me. Vieni, vieni, che mo' ricepita. Tira giù sulla dita, contro tutti gli arroganti, sì. Asiente. C'è saccio, e senti, c'è saccio, e senti, e segue balli, e mi segue la sai, senti un moica della canto che te la dico, e segue canti, e mi segue la sai, senti un moica della canto che te la dico, e segue balli, e mi segue la sai, senti un moica della canto che te la dico, e segue balli, e mi segue la sai, senti un moica della canto che te la dico, capello bello, moca sai annanzi a me, capello bello, ci parli male dei miei capello bello, ci parli bueno dei miei capello bello, ci parli fiacco dei miei perché sono paparichi anni anni che giro, qualcuno si è fermato ma io ancora non mi ritiro, ma non ho visto cantare poro solo in compagnia, a volte incazzato, a volte in armonia, giornale, radio, televisione, calatiti la faccia di sto guaglione, mi dispiace ma questa è la situazione, mi dispiace se ne mola sai, e se vuoi canti e mi segue la sai, sento e moica della canto che te la dico, e se vuoi balli e mi segui la sai, sento e moica della canto che te la dico, capello bello, questa fagnona che stai con me, capello bello, non le chiocate di capello bello, le corna alla luce di capello bello, la sappiamo io e te, tra le canzoni si possono dire tante cose, ma si scopre bene trovi storie misteriose, perché parlano dei problemi, dico è puro degli guai, ma le io non riesco a fermarmi, non riesco proprio a intervenire, ballare la voce su queste vibrazioni. E perché te devi fermare? No, infatti non mi fermo. Studio sto zitto, aspetto il mio momento, capello bello, silenzio sta accanto, io capello bello. Da Papa Ricky a Chef Ragù, for militante. Ballone adesso sta a ascoltà, la gente con sta roba deve troppo ballà, se sta a fare gli altri cazzi adesso deve accannà. Giù dal coppolone sta arriva Chef Fra. Ballone adesso sta a ascoltà, la gente con sta roba deve troppo ballà, e se sta a fare i cazzi adesso deve accannà. Il squa non ne sa, spacca corti H dalla villa fino a qua. Rasclat! Organizzo feste nello spazio, mando di bidibi soundboy nello spizio, vinco tutti quanti con sto stile che gli do, quando bevo il cat e poi l'alterno col vino, faccio storie avventurose come Mister Ro, e mo ascolta il biscuo col flow, quando scendo in campo e il mio team segna go, bella Peppe Cugni e pure bella Varo, bella insieme alla Pischella in stilo Art Deco, e io non te ferma proprio mo, giù dal cupolone sta arriva Chef Fra. Ballone adesso sta a ascoltà, la gente con sta roba deve troppo ballà, e se sta a farti i cazzi adesso deve accannà. Uè, senti sta musica e senti la buona, questa è l'originale Soundboy, Vito Vinicolo e Fabio Zorla anche in connessione. Tanta buona musica, amore e ganja, anche se preferisco il vino rosso amabile, brindisino cico. Per gli altri tutto misterioso, sentono e non capiscono, e non capiscono. Senti sta musica, senti sta musica, di qui la registrazione calmo fatta e unica. Senti sta musica, senti la buona, questo è lo speciale per un DJ casta suona. Se senti Fabio Zorra, Tito Boots, Disastar, a tutti la passionati della cultura rasta. Hip hop e reggae, unica combinazione, musica universale, linguaggio ed espressione. Senti sta musica, senti sta musica, di qui la registrazione calmo fatta e unica. Senti sta musica, senti la buona, questo è lo speciale per un DJ casta suona. La musica più di ogni altra cosa come Verlaine, io smoco Buddha, meditazioni zen, mistiche visioni che portano emozioni, poni le giuste condizioni, miste a colori e suoni, note musicali senza distinzioni razziali, la musica ci rende tutti uguali, nutriti e cresciuti quasi allo stesso modo, e non escludo che è caduto in circostanze illegali. La voglia di far soldi è troppa. Si sperimentano tattiche anche spiritualistiche. C'è chi scappa mentre trovo soluzione. Un momento di riflessione nella musica che faccio. Per me un esame, mi promuovo, mi boccio. Alla ricerca continua di un nuovo approccio. Nessuno caccio ciò che dentro me fa brutto. Uno per tutti il motto, tutti contro un affatto. Parzialmente cremati nobilitano l'impatto. Da questo tratto un'energia inspiegabile. È come un suono intramontabile. Nonostante la musica per troppi una parola incomprensibile. Senti, per tutta la gente che si spacca la schiena per lavorare. Per tutti quelli che il pane se lo devono sudare. Per tutti quelli che devono accettare quello che non gli va. Se lo sai, culla stai, aia. Culla del fisherman. Pesci vendono per caso. Non ci avrei creduto mai, ci avrei pensato adesso. Culla del fisherman. Pesci vendono fidato. Però si sente faticato, un po' sfruttato adesso. Sono alla sveglia, sono le 5 del mattino. Sto come pannostaccio vecchio nello sgabuzzino. Mi alzo, vado al bagno, dentifrice e spazzolino. Mi sciacquo, poi mi guardo, c'ho la faccia da cretino. Mi sprito, poi mi vesto, mi preparo il cappuccino. Che prima d'anno a lavorare devo fa' sceneggino. È tardi, sole, se devo timbrare il cartellino. Arrivo paro paro che mi tocca lavorare. È già arrivato il camion con la merce ordinata. Che come apro vedo prima fila e pesce spada. Una bestia enorme penso che sarà una quintalata. E dietro il camion piano cominciamo la giornata. Io do una controllata, la roba che è arrivata. Mi viene il mal di testa sola, dai una guardata. La spigola striata, la trota salmonata. L'orata la ricciola e la ringa affumicata. La sticera piovra, la soiola la scernia. Io già c'ho freddo adesso e devo entrare pure in cella. Un freddo allucinante, un odore perforante. Comincio a mettere ghiaccio, sbolla un balli con il banco. Le fisherman, pesci vendolo pescato, pesci vendolo per caso si è trovato adesso. E all'improvviso è ora d'apertura, sole le 8. Che c'ho il fiatone addosso che mi sento tutto rotto. Ho fatto un culo tanto proprio grande faticata. Ma la giornata è lunga, adesso è appena iniziata. E dentro accende subito una mandria impazzita. Che arriva prima, compra cuore e evita la fila. C'è la signora subito che viene ogni mattina. Quella sogliola, mi squami quella triglia. Mi raccomando è fresca, devo darla alla mia figlia. Ora ci sono io, mi dia i calamari. Li faccio ad anelli, mi dia pure fasolari. Di fretta per favore che non ho tempo da perdere. Mi servono i filetti di merluzzo e quattro marmore. Pulisca i merluzzetti, ci mette i gamberetti. E li pulisca bene che mia moglie è raffinata. Ma quanto costa questo pesce? È come l'oro sempre cresce. Ma quando iniziano le offerte speciali, che voglio fa la zuppa con la razza nei suoi ali. La de fisherman, yeah. Dove dipende da una multinazionale che, dove dipende da un impero del potere che te fa sentire impotente che comanda su di te. Una frustrazione che è difficile da vivere. Multinazionali con miliardi su miliardi. Conta solo il soldo, quanto vendi, quanto incassi. Conta diventare ogni giorno più potenti. Non ci sono legami tra padroni e lavoranti. Cambiano i contratti per rubare dipendenti. Cambiano le leggi, più potere a delinquenti. Cambiano i bilanci, cambiano i regolamenti. Libera la decisione dei licenziamenti. Culla del fisherman. Quello io non l'ho votato. E mi... Non apprezzo la dignità che spesso affianca la miseria. Ciò che disprezzo, che non sopporto la povertà di chi vive di invidia. Aspetterò il tempo giusto per l'incontro con te. Dimostrerò che fine fa chi non è umile. Difenderò solo lo spazio conquistato da me. Perché lo sento dentro, vivo quello che scrivo al 100%. Accento a non rubare tempo utile al silenzio. Io sono quello che sono e non me ne vanto. Canto, faccio quello che faccio perché lo sento dentro, vivo quello che scrivo al 100%. Pronto a non lasciare spazio facile e contento. Io conosco i trucchi dell'incantatore abile, i trappocchetti dei maestri di metafore. Mi vuoto dietro le peripezie sintattiche. L'odore insipido dell'aria che sta friggere. Perfetto chi riflette prima di rispondere. Chi non accusa coi proverbi e con le massime. Chi veramente ha qualche cosa da trasmettere. Non mette gocce dei saggezze in dosi spicciole. Non cerco fama né proselitismo facile. Molto distante dai discount dello scibile. Dai letter due delle esperienze pantomimiche. Adesso adesso segui me. Ti prego ascolta me, le prediche, conservale per l'intelletto debole. Nel volo incatarsi con peripezie sintastiche e metafore, senza sostanza da descrivere, credi a me. Io so quello che sono e non me ne vanto. Canto, faccio quello che faccio perché lo sento dentro. Vivo quello che scrivo al 100%. Attento a non rubare tempo utile al silenzio. Io sono quello che sono e non me ne vanto. Canto, faccio quello che faccio perché lo sento dentro. Vivo quello che scrivo al 100%. Pronto a non lasciare spazio facile con senso. Io liriche su liriche, metriche su metriche. Passo le giornate e cerco in me melodie armoniche. A volte sembra magiche, spesso sono logiche. Prendo spunto dalle situazioni energiche. Liriche su metriche, metriche su liriche. Un minuto dopo la mezzanotte dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM a Roma e nel Lazio. Ma in verità in tutto il mondo, perché andiamo anche in streaming. Se problemi scordate, se si letta mette il disco a cerca di trasmettete vibrazioni serie che le sento forti dentro me, se te risulta. No, puoi pure tenerla abbastanza alto. www.ondarossa.info, il sito della radio dove poter andare appunto a cliccare su ascolta la diretta. Dietro le peripezie sintattiche, l'odore insipido dell'aria che sa friggere, quanto chi riflette prima di rispondere, c'è una posa coi proverbi e con le massime, chi veramente a qualche. Allora Militant, come se fossi qui, questo CD è scritto a pennarello, la calligrafia è la tua, c'è scritto Fever sopra. Non cerco fama né proselitismo facile. Tonight, never know how much I love you, never know how much I care. Sunlight after daytime, moon lights after night. My eyes let when you call my name, 'cause I know you're gonna fit me right. You give me fever when you kiss me, when you hold me back, you give me fever. Rockets, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. You give me fever, you give me fever when you kiss me, when you hold me tight. Down. Tonight, never know how much I love you, never know how much I care. Sunlight after daytime, moonlight after night. My eyes light when you call my name, 'cause I know you're gonna fit me right. You give me fever when you kiss me, when you hold me back, you give me fever. E arriva, perché è una febbre. You hold me tight. Fever tonight. Never know how much I love you. Never know how much I care. Sunlight after daytime, moonlight after night. My eyes light when you call my name, 'cause I know you're gonna fit me right. You give me fever when you kiss me, when you hold me tight. You give me fever. Rockers, rockers. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Downtown Rockers alongside 25 o'clock dalle frequenze di Onda Rossa. Come una volta, diciamo. Come era 8-9 anni fa, non ricordiamo bene. Diciamo 2006-9. Vabbè, però comunque per parecchi anni, perché poi al mercoledì noi ci spostammo a un certo punto, nel 2000 qualche cosa. Ma il mercoledì si era creato una bella alchimia, mi ricordo, sì, io. Sì, tant'è, sì, che trasmettemmo anche insieme un paio di volte. Sì, sì, ma fin dai tempi del primissimo Downtown Rockers, quando Next Time era ancora al completo, diciamo, col Patata, Caronte, il sottoscritto, insomma, che venivamo e si creava un bel ambiente al cambio. Stiamo parlando di metà anni 90 e Giardia aveva dei capelli un po' particolari all'epoca. Eh sì, avevo i dreadlocks. E io passo di mano, do il controllo a DJ Fefo. Rockets, vai, yeah. DJ Balone, vai, yeah. DJ Banai, vai, yeah. I love her, hey, vai con la lulla, hey, vai son baracca. Dance, Rockets, musica libera. E ricordiamo che domenica dalle 19 all'Aloha Acrobax in via della Vasca Navale, per chi volesse ricordare Militante Barone ballando, come sicuramente avrebbe gradito. Ci vedremo lì. Come noi, Dance Rockers, musica libera. Dance Rockers, sincera limpida. Dance Rockers, a me mi piace assai. Dance Rockers, coscienza verità. A me mi piace tanto rock che si letta. Tanto cuore, tanto amore, si malletta. Mi piace, mi dice, mi piace, lo piace. Ah, ai, se famo un'overdose di storia che rasta. E queste vibrazioni famo le man bassa. Chi se l'ascolta è sicuro se la spassa. Con tanta rockers, costi san voi. E vai tranquillo, non te smorzi, non da noi. Dance rockers, musica libera. Dance rockers, sincera lumpia. A me mi piace assai. Dance Rockers, coscienza verità. Verità, verità, verità. Dammi dai sta musica, vibrami nell'anima. Fremo quando tu ci stai, fremo quando sta a suonare. Musica libera. Dance the Rockets. Liberi, cercato tanto, Dio non ci sta. Libero nella speranza di seguire una strada, libero nella speranza tanto male che vada. Bevo per dimenticare male che intorno, bevo per passare pure anche questo giorno. Siamo liberi dei chilometri, siamo liberi dei chilometri. Davide Erbosca. Da papa telegiornale, libero di farmi trasformare. Maleducazione alcolica. Libero di farmi possedere dalla musica. Siamo liberi. Ma non ci prenderanno vivi. Atmosfere di fumosi locali con la band sul palco con i fiati e il contrabbasso. La birra che sgorga dai nasoni. E questa atmosfera di nebbia e sudore. Questa è la cultura africana portata di là dell'oceano, di là della Manica. E ci siamo quasi, Notte della Magia, giovedì 16 luglio. Fra incantesimi, chiromanti, tarocchi, non saprete più dove guardare. Bye. Le 18.30, aperitivo vegan a sostegno di una stanza tutta per sé. Alle 19.30 con Giove e Venere congiunti. Love is in the air. Cabaret astrologico di Astronza. Scritto così, eh. 22. DJ set di pazzi, balli onirici presso le Cagne Sciolte, via Ostiense 137B, metro B Garbatella. http inventati.org, una stanza per tutti. your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Before all 25 o'clock con dentro Downtown Rockers. Mezzanotte e 26, Radio Onda Rossa. Per salutare, per accarezzare l'idea di Silvio Barone. Perché Radio Onda Rossa non è sola. Ed è proprio storia di quegli anni quando, insieme a Radio Blackout, Radio Onda d'Urto ed altre radio, per un periodo funzionò il circuito di Radio Gap. Rocket Dub Foundation, Dub Blackout. Una compilazione a sostegno di Radio Blackout, ormai un po' datata. radiale, eh? Pecorino! Che lagna! È la palla di quello scemo, guarda dove la va a mettere. Antrambo. Te lo chiamare Antrambo? Come? Lascia stare fettine. Come? Chi t'ha detto Antrambo? Ma pure sbagliato. Ma chiama un sì, sbrigati che c'hai i minuti contati. Ma aveva rubato una fettina qui. Questi erano i Ministry. Though he's gone, we'll still not fail. this land is not for Questa terra non è in vendita. Dalla Grecia alla Turchia al Kurdistan. Alla solidarietà bienale internazionale. Alla terra di Palestina. Al Nord Africa. Tutti coloro che hanno la faccia tosta di alzarla e di guardare in faccia il loro nemico. This land is not for sale. Asian Dub Foundation senza alcuna frontiera. Gran Calderone. Switch the dial. This is the test of the TV Corporation on radio. Yes, sir. Yes, sir. Sleep it. attention, whether you drive or whether you walk. Put up my antenna in the middle of the park and transmit the signal in the light and in the dark. Radio retaliator never ever get caught and change the stereotype of people's watch you over talk. 50,000 watts of TV in them like poison dart. I watch the whole system where them kill them fall apart. Singing, whoa, now, retaliation. Radio retaliation. It's such a different corporation. We taking over your station, and we are gonna change your vibration. Boy, me have the basic qualification just to get people straight and cover the microphone from 8 o'clock up to 8. People giving the recommendation from the musical senate for jumping the rock. The song, the middle song, the song with the most weight. Them sound up from every corner in every tribe, they ring on the gate. When I walk in solid steel, but then it's your time for wait and re-emerge from the scene. I wipe away all the hate. Radio retaliation. It's such a different corporation. We taking over your station, and we are gonna change your vibration. Chief Rock and Fever, we come up them left on the young top with melody and sophistication. Let your bone off your rock. Sleeper one that left on the mic, the rock. I'm off in speed rap. And if your vibes is in a I would lift it up on the top. Erica rap them produce the beat and invite sleeping on the track. The combination of the group destroy your whole evidence. Main objection of the track but tear the whole place. Front on all the people in the lungs, they mark it up and they are singing. Whoa, now, retaliation. Singing, whoa, now, we're gonna wake up the nation. Radio retaliation. It's such a different corporation. We taking over your station, and we are gonna change your vibration. Boy. Assolutamente tutti concordi qua in redazione che abbiamo ingranato la marcia indietro. Marcia indietro perché ci guardiamo indietro. Every day a different view, many things I'm passing through. If it's a warning, tell me what the fuck am I to do? The sky is turning orange, frozen. Ma per guardare davanti. Forever, now or never, high as ever, can't you see it's a- qui al Camagain lo faccio da solo. Shiner Massive Orange. Different view, many things I'm passing through. If it's a warning, tell me what the fuck am I to do? The sky is turning orange, frozen on the lawn, burning forever, now or never, high as ever. Can't you see it's attitude we fight? It's attitude's precise, ain't no solution now, so keep it out of sight. And there ain't no climbing on us, ain't no rewinding on us, ain't no looking behind, cause we ain't got the time to run it. Heat is upon us, see me bleed my persona, seek what I want and creep upon us. We the Roman League opponents. The war is over, now Jesus among us. Jesus, can't you see it coming? See it running, they walk among us. But they keep on coming and we keep on running. The light turns the morning, the scissor warning. The sky turns the orange and the blood on the lawn. You had just been forewarned, stay away. life is a journey, but man and each other. They want us to start it with the mind in the gutter. Rivers to puddles, ain't nothing that's subtle, nothing to settle. No silence left, no need to tell you. Hope is another dream, nope, it ain't what it seems. Hope that I live to tell it, hope I find out what it means. I cry out many things, we write out, but it seems no light out, nowhere to hide out. Move to the side, make way to the sea. Now it's provoking us and choking us, but time is of the essence. I've spoken up, I soak it up, I hope I found a blessing to touch and keep addressing my trust. I know I'm pressing my luck, but I ain't stressing too much. You see, I come from the sun and the light is the gun. I don't fear anyone, I come to get it done. The sky turns to orange and the blood on the lawn. You have just been forewarned, stay away. Inside us to riot, fight has begun. Too tired to run, desire to summon. Fight the liars inside to come. When you see my giant run, when you come to get it done. When you see that fire, you better run. Freedom comes in the strangest places. Che descritto questo qua, eh? Faith I have for my, the kingdom come divide the states. We should die before I wake. La vogliamo salutare la capisciona che all'epoca portò questa perla. Happiness burning pages, I've been turning, I've been swerving wages, I've been burning, discerning. Shiner Massive passavano da un genere all'altro con una facilità. We choose it cause it's working. So look to the sky and take all of your pride with your life. Una scioltezza, diciamo. Imbarazzante. Il tutto suonato, eh. Pochi campioni, tutto fatto a mano. Mezzanotte 51. Dalla Nuova Zelanda, Fat Freddy's Drop. Russia. Grandissimi Fat Freddy's Drop, una di quelle realtà che ci piaceva mandare proprio negli ultimi anni di Downtown, perché rappresentavano quella contaminazione, quelle nuove sonorità che ci mancano da altre parti del mondo, quindi non solo sì, Giamaica. Provenendo da luoghi insoliti. Esatto, quindi sonorità partite dalla Giamaica, diffuse in tutto il mondo, recuperate, rielaborate, in questo caso Fat Freddy's con Drop. Tanto soul, tanta jazz. Tanto jazz, tanto blues, tutto ciò che comunque poi alla fine viene dall'origine di tutto, cioè l'Africa, la terra afro, la terra dove popoli interi o comunque pezzi di essi sono più o meno costretti ad emigrare qua da noi per cercare fortuna, per fuggire, per perché così va il mondo, perché si gira ed è giusto girare. E allora pensiamo a una nazione grande quanto l'Abruzzo, che si chiama Giamaica, fondata proprio dai figli degli schiavi deportati dall'Africa in America e Centro America, che con la musica è riuscita a liberarsi, a liberare tanti dei suoi figli e figlie. Eh sì, perché c'ho anche qui delle robe che vengono da tutto il mondo e che comunque appunto magari non conoscono Gesù Cristo, ma Bob Marley sì. Sono le vibrazioni che vanno in onda nella 25esima ora, nel tempo che non c'è. L'hip hop ci eravamo dimenticati, eh? Ragamuffin. Heartbeat rhythm is the inspiration. Yes, it's got the hearts of the musician. And spread around. Vabbè, appunto, a pochi minuti dall'una andiamo a ricordare, quindi come andremo a ricordare. Andiamo a ricordare che domenica prossima, allora, all'OA Acrobats, non ci interessa tanto spingere un'iniziativa per un motivo particolare, se non ricordare insieme Militant Barone, cioè uno di noi che non c'è più e che ci ha dato tanto e che ci va di ricordare così. Allora, Acrobats dalle 19 a Via della Vasca Nasale, cioè Navale, scusate. Va bene pure così, dai, non so fare. Ah, Vasca Nasale è bellissima. Radio Onda Grossa. Allora, in Via della Vasca Navale e Dancehall con tutta la crew di Roma, tutte le crew di Roma, per ricordare Silvio, big up. Noi ci sentiremo invece mercoledì prossimo, come sempre. Probabilmente con altri compagni di sventura. In ogni caso, tu mi confermi che dopo 25 o'clock c'è ancora uno spazio nel palinsesto? Si è allargato tanto 25 o'clock, però bisogna vedere fino a che mareggia la pompa, insomma. Infatti, non te sopravvalutare. Io c'è un altro progettino con te che dobbiamo fare quando ti va, andando più sull'elettronica e magari sulle sonorità là. Perché la musica alla fine è un cerchio, alla fine ci si incontra in alcuni punti, in alcuni momenti. Sì, ma poi non esistono i generi, come si dice. No. Tutto è mischiato, c'è sempre, non c'è mai un confine netto e definito, si passa da una cosa all'altra, e forse è proprio questo che facciamo noi, è proprio quello di allargare gli orizzonti dei suoni che altrimenti rimarrebbero lì. Ma come la gente si mischia. Yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Tanto mandiamo da capo. Ecco, vedi, ad esempio, questo è il classico esempio. Perché questa canzone di Bob Marley è stata rifatta così tante volte? Poi se tu chiedi a un appassionato di musica reggae, ma qual è la migliore canzone di Bob Marley? Non ti dirà mai questa. Ma perché? Perché quello che dice conta, è quello che unisce. Sì. Triumphantly. Da capo, come again. Won't you help to. E quindi non date retta a chi vi dice la musica è liberazione. Non tutta la musica. Yes,

times, comes radical minds. Living on God. Let's all share dreams. All share dreams. Let's all share dreams. I'm never coming this moon. All share dreams. Let's all share dreams. All share dreams. I'm never coming this moon. Let's all share dreams. All share dreams. Let's all share dreams. I'm never coming this moon. Dreams, I'll share our dreams under a communist.